che riguarda sostanzialmente le manifestazioni dell'aggiunto di diciamo, i processi per il Diaz, per le torture di Bolzaneto e anche per questi 10 compagni e compagni che sono stati appunto accusati della stazione di saccheggio, si è fatto molto, forse non abbastanza direi. Abbiamo pensato perciò di prendere, come dire, un tempo per riprendere parola, per raccontare quella che era la nostra Genova e quello che in questi 10 anni quei movimenti hanno continuato a produrre. Perché se una cosa possiamo dirne è che in questi 10 anni sia la scelta a Genova a dimostrare di avere ragione. La globalizzazione mostra tutte quante le sue limiti nel raggiungere il benessere delle persone, siamo in piena di una crisi finanziaria che sta sfruttando tutto e tutti, pensiamo che questi 10 compagni e compagni debbano avere in questo momento tutto il nostro sostegno. Abbiamo lanciato un appello che è sul sito www.10per100.it, un appello che è stato fino a questo momento sottoscritto da quasi 1000 persone, tra personaggi della cultura, dello spettacolo, del mondo della musica, della politica, ma soprattutto da centinaia di persone che erano a Genova, ma anche da persone che non c'erano e che hanno riconosciuto in quell'appello probabilmente il modo anche per riprendere parola su quello che loro erano andati a dire in quei giorni nelle piazze e su quello che loro continuano a dire in piazza oggi. Io adesso passo la parola a Laura Zadini, che sta seguendo sia il processo per Diaz che il processo appunto per i 10 compagni e compagni, e le chiedo appunto di farci un racconto di questa fase processuale, poi lascio il microfono aperto a chi volesse intervenire. Grazie a tutti, noi ci troveremo il 13 luglio a fare questa udienza in Cassazione, e già diciamo il fatto che sia stato fissato un giorno solo di udienza, quando ci troviamo in oggi a discutere il processo Diaz, dove le udienze ne sono state fissate ben 5 per dare il giusto spazio sia alle parti civili che alla difesa, si dice già come sono intervenuti, diciamo così, come è intervenuto lo strumento penale sui fatti di Genova. Queste 10 persone sono accusate di devastazione e saccheggio, che è un reato, ormai lo sappiamo tutti, che è detto il codice Rocco come tutti gli altri, ma che è stato applicato dopo la guerra in maniera assolutamente limitata, gravissima. È stato applicato per un po' sugli ultra, sulle squadre di calcio, è stato applicato l'11 marzo a Milano e poi su Genova in maniera assolutamente, quella sì, devastante. È chiaramente, se uno lo legge, un reato pensato per fatti che non hanno niente a che vedere con quelli compiuti dai movimenti e dagli attivisti dei movimenti, perché è un reato che richiama, diciamo così, lo scorrere delle campagne in armi del medievale, che non ha veramente nulla a che fare con quanto è accaduto a Genova. Io vorrei anche ricordare che di queste 10 persone, i reati che poi materialmente vengono contestati a queste 10 persone sono reati veramente bagatellari, cioè parliamo di persone che sono accusate di aver rotto degli oggetti, parliamo di persone che sono accusate di essere entrate in un supermercato già ampiamente aperto, di essersi portate via una bottiglia di spumante o un pacco di lasagne. In un solo caso abbiamo una persona che ha affermato, peraltro lei stessa, ad aver lanciato delle molotov, ma diciamo questi sono i reati che sono stati contestati, e parliamo di pene che appunto vanno da 6 anni e 6 mesi nel caso diciamo più lieve a 15 anni in quello più grave, e voglio dire, tutti quanti siamo i giornali e tutti quanti siamo in grado di apprezzare l'entità di questa punizione richiesta, nel senso che appunto non viene richiesta neanche in sede abbreviato, sono richieste che non vengono fatte neanche per gli omicidi. Tralasciamo diciamo quello che è il paragone con le pene che invece sono state richieste e applicate per chi, come chi ha imputato oggi in Cassazione, ha invece rotto testa, ridotto persone in armi in fine vita, faticato degli arresti legali e falsificato le prove, perché diciamo è una partita che conosciamo bene tutti, e peraltro è una partita che non è finita nel 2001 ma che continua tutti i giorni, lo vediamo anche per quanto riguarda la Val di Susa recentemente. Per quello che riguarda queste 10 persone, io credo che sia importante il lavoro che viene fatto oggi anche di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, perché questo reato deve scomparire. Io apprezzo molto che negli ultimi anni, nonostante ci siano state manifestazioni anche diciamo così esuberanti, non sia stato più applicato, e quando è anche quando è stato richiesto dalla Procura della Repubblica, poi i giudici di merito hanno deciso di non applicarlo, quindi diciamo forse in qualche modo stiamo mettendo piano piano i piedi fuori da questa veramente da questa sorta di aberrazione giuridica, e speriamo che di questo la Cassazione il 13 luglio ne tenga conto, anche perché appunto non soltanto da 300.000 persone eravamo arrivati a 25 imputati, ma da 25 siamo arrivati a 10, se veramente è scandaloso che queste 10 persone poi si ritrovino a pagare un prezzo così salato per dei comportamenti come quelli che descrivono prima. So che ci sono altri interventi, quindi vi prego di avvicinarvi insieme al microfono, vuole intervenire. Io intanto vi do appuntamento anche questa sera a San Lorenzo, che è il mercato dove verrà proiettato il film La provvista di Carlo Bauschmidt, e ci saranno anche dei momenti insomma di informazione video sui processi per la via, sì, anche quello appunto per i 10, quindi anche sarà un modo per lanciare ulteriormente la campagna in attesa poi di lanciare poi i prossimi appuntamenti che speriamo ci siano sia a Roma che in altre città. Va bene, se non ci sono altri interventi io vi ringrazio e a presto.